se parto dalla fine, sì, sta funzionando, mi interessa assai. Sì, sta funzionando, chiaramente non sono prestazioni di lavoro coatto, quindi diciamo, la velocità della realizzazione dell'opera un po' ne risente, soprattutto se confrontata col vero miracolo italiano di tre turni di 8 ore sui cantieri edili, che è quello che si sta realizzando nei cantieri del governo. Noi ne lavoriamo veramente molte, ma molte meno. Però sì, assolutamente, c'è ancora bisogno di persone, tanto più se hanno delle specializzazioni come i tuoi amici elettricisti. A che punto siamo? Siamo che noi avevamo elaborato a proposito di competenze che si incontrano per strada. Tutta questa realizzazione è possibile perché abbiamo incontrato due architetti che avevano un'esperienza di progettazione partecipata e con i quali, come dire, abbiamo capito che era possibile anche farlo, cioè, oltre ad essere una sega mentale del terremoto che crolla addosso la casa, dice vabbè, stai fuori con l'accusa, fatti meno canne, no, guarda, ragioniamoci perché effettivamente è fattibile. Se non avessimo avuto questa sponda di competenza esterna, difficilmente saremmo andati da qualche parte. Perché ti ho introdotto questo elemento sulla competenza? Ah, ecco sì, perché quindi in dialogo con loro abbiamo redatto un progetto che era per 7 unità abitative, poi è stato presentato ai terremotati del paese, che hanno fatto le loro scelte anche dettate dalla contingenza. Dopodiché abbiamo cominciato la realizzazione e il cronoprogramma abbiamo dovuto adeguarlo, cioè ci siamo resi conto che in realtà noi 7 abitazioni col lavoro volontario non ce l'avremmo mai fatta a farle tutte per l'inverno. Adesso siamo al punto che entro Natale chiudiamo la prima, che per noi è la più importante perché va ad accogliere un nucleo familiare di diciamo, padre, madre, figlio e nuora, dove però la più giovane ha 40 anni, il più anziano, la più anziana ne ha 82, hanno in 4 disabilità, e quindi diciamo, se riusciamo a mettere dentro loro facciamo proprio l'obiettivo, il target mulino bianco, tanto per dirci. Ma poi sono tra l'altro quelli che avrebbero maggiori difficoltà ad ambientarsi all'esterno di quel contesto per il tipo di formazione culturale, per il tipo di esperienza di vita che hanno. Dopodiché abbiamo altri 4 basamenti già realizzati, una struttura interamente in paglia che va a realizzare uno spazio comune. Di questi 5 basamenti, 2 case sono già su, vanno completati gli intonaci e gli impianti, appunto, e altre 2 le realizzeremo in primavera. Quello del dispositivo sociale a noi non sembrava in realtà questa grossa innovazione, nel senso che l'idea da cui partivamo era quella di una comunità aperta, che in questo momento, quindi un luogo tendenzialmente prossimo all'estinzione, dove il problema demografico non è il problema demografico che si vive a Milano, è l'inverso. Rispetto a questa situazione qui, qualsiasi nuovo arrivo a noi ci faceva piacere, quindi non c'eravamo un problema di frontiera da proteggere o di campo di mercato da riservarsi, per cui non puoi chiedere aiuto all'altro perché poi magari c'è una torta da spartirsi e dopo bisogna spartirla in 2. Tutto questo tipo di problematiche non l'avevamo. Avevamo bisogno di aiuti economici, ma anche e soprattutto di competenze, e ci è sembrato ovvio offrirlo a pari condizioni a tutti. Avremo anche 3 abitanti nuovi, sì. Avremo 3 abitanti nuovi e delle diciamo, 70-75 persone che sono passate dal 1° di settembre ad oggi a darci una mano, c'è qualcuno che è seriamente interessato a fermarsi, per cui il mio cruccio in questo momento è come chiudere più case possibili per dargli la possibilità di rimanere da subito. Sì. Non so anche qui se ho risposto, ma...